decisione su 10, cambio. Ecco l'innesco. Hola. Attenzione, canale 10. Tuffi Rum ancora vivo. K di Rogero, io sono sempre qua. Solo che c'è gente che non risponde, mette la portata e non risponde. Eia, aspetta che attacco un filo già. Beh, sentite, dopo tanto, io stavo sistemando qua. Stavo trovando dei binocoli presi da Lidl. Stavo facendo il confronto con quello che avevo prima, che però era, cioè, per un ingrandimento in più era molto più pesante, molto più lungo, era impegnativo anche da portare al mare, così insomma, e comunque sono validi tutti e due. Sì, c'è una stazione di Sassari che preme la portante, c'è un bip molto lungo, fa tu, basso di tono e lungo, però poi lo rilanci magari, chiami pure, no, avanti chi vuole entrare e non riprende. E se a volte sta tutto il giorno tu, tu, con questo bip, tu, avanti, niente, non entra. E qua arriva la vetretta poco dopo il GP. Cosa ti stavo dicendo, Marco? Cosa te le comprate questi binocoli per guardare le signorine che si spogliano di fronte a casa tua? No, no, no. Così per quanto quando vai al mare, in campagna, mi è sempre piaciuto il binocolo, ma l'ho messo in testa a nonno, visto che lui era in marina, c'aveva la passione ai binocoli, ma che binocoli già, cioè pesanti, roba a livello di Zeiss, forse anche militari erano, non questi binocoli cinesi che vendono adesso. E quello bello gli avevano rubato, mi pare, dalla macchina, una volta andando a Taranto o a Sassari, rubato dalla macchina. Ma ero molto piccolo io, me lo ricordo a malapena, so che era pesantissimo, lenti proprio di alto livello, eccetera. Eh sì, vabbè, funzionano. Per 24,99 euro già voi. Comunque vanno bene anche per guardare le vicine che si spogliano, certo. Marco, prima di essere poliziotto, mio suocero ha fatto 10 anni in marina, ce l'aveva anche lui, c'aveva le lenti Zeiss, ed era di quelli pesanti che dici tu, c'aveva un cannocchiale bellissimo. Diciamo anche l'altro andava bene, però ho detto troppo lungo, sì, un po' più pesante, troppo lungo, quello che avevo prima, quello di prima era Auriol, sempre preso da Lidl. E questo è un 7x50, cioè hai pochi ingrandimenti, solo 7, però hai la lente da 50 mm, quindi è abbastanza luminoso, c'è una bella pupilla d'uscita. Perché anche se ti prendi quelli 10 ingrandimenti, 16, sai quanto fa male agli occhi, non riesci a tenerli fermi, se il cavo a letto sì, se no, no non riesci. E dà proprio fastidio alla vista, e poi cominciano le aberrazioni cromatiche quando hai quelli che spingono molto, a meno che non compri un super binocolone da migliaia di euro che comunque è buono, comunque anche ha ingrandimenti spinti, ma non nel mio caso, non è che faccia radioastronomia, al massimo puoi guardare la luna piena, soprattutto quando è all'orizzonte che è bassa bassa e arancione, così quello è spettacolare. A proposito, una volta Grode aveva fatto una bellissima foto della luna, però non mi ricordo che tecnica abbia usato, se cellulare più cannocchiale o se l'ha fatto con una reflex. No, l'ha fatto con la macchina fotografica, e con lo zoom. Ah, sarà stata tipo Canon EOS, qualcosa del genere, certi hanno uno zoom molto spinto, tipo equivalente al 1000 mm. Poi ho notato che questi binocoli hanno l'attacco per il treppiede, però sicuramente ci vuole un adattatore per il treppiede, e quello no, forse si compra online. Tipo, hai mai provato tu col cellulare usare un oculare per usarlo come uno zoom ottico? Hai mai provato? No, così no. E comunque io con la macchina fotografica le ho fatte anch'io, vedi, queste cose qua. Io avevo una Canon EOS 60, una delle migliori che c'era allora, costava 1000 euro sulle corporate. Sì, a me piacevano le Canon EOS all'epoca. C'era un obiettivo di colore bianco, praticamente era equivalente, era pellicola quella Canon, credo, 1000 mm, praticamente era un cannone bianco e con quello vedevi proprio, era praticamente un telescopio. È quello che c'aveva Grotte, quello che sta dicendo tutto è quello che aveva Grotte. Io c'avevo l'EOS 60 e avevo uno zoom da 220 e poi c'avevo grand'angolo eccetera eccetera, faceva da 28 a 220. Sì, io ho avuto la Praktika nel 90, la Praktika era una macchina fotografica sempre a pellicola, no? Però già mezza elettronica, avevo l'otturatore anziché a tendina, diciamo era elettromagnetico, da poi è stata una pecca quella lì. Avevo preso uno zoom di marca un po' generica, questi zoom che vanno bene, compatibili con la marca, era un, guarda, non vorrei sbagliare, poteva essere un 35, porca miseria, sai che non me lo ricordo più già, tipo 35-200, una cosa del genere, praticamente ti faceva un teleobiettivo non troppo spinto e un grandangolare non troppo spinto, tutta quella gamma c'avevi di... E comunque aiutava un sacco, caspita se ingrandiva l'immagine. Io con la Praktika, perché l'ho avuta anche io, l'avevo presa da... come cavolo si chiamava? Da Q, ma non mi viene il nome come si chiamava. Quello che c'era via che via era? Scendendo giù da via Cagliari. L'avevo comprata lì la Praktika, non so tu dove l'hai comprata. E avevo messo zoom tambro da 220, poi c'avevo 28 mm, 50 mm, filtri, cross screen. Ascolta, ma il modello, ti ricordi qual era? Non è che per caso era la BX20? Marco, è una domanda accetto migliore, chi se lo ricorda più? È una delle prime macchine che ho avuto fotografiche di quelle un po' serie, dai, prima c'erano quelle piccole, poi è una delle prime serie che ho avuto. E mi si era rotto quelle alette che pressano la pellicola, erano tenute da un puntino di plastica termosaldato, c'erano rotte e non sono riuscito più a aggiustare, ce l'ho buttata via. A me è successa una cosa a scuola. Allora sì, quella macchina era sempre a pellicola, ripeto, però aveva un otturatore metallico anziché quelle tendine in tela de latte, no? Tela gommata, ecco. No, questo era scorrimento verticale metallico e praticamente all'Istituto d'Arte era sulla cattedra, praticamente l'insegnante aveva spostato il registro in avanti, non si era reso conto che c'era la macchina, era caduta a terra da una misera altezza di una cattedra, no? Eppure dal giorno non ha più scattato, l'otturatore non scattava più. Vedi, tutta questa roba elettronica, fosse stato con l'otturatore a tendine telate gommate, no, in tela gommata secondo me avrebbe continuato a funzionare. Purtroppo sai cosa è successo già? Che lì, come è caduta l'Unione Sovietica, è caduta anche tutto muro di Berlino, Germania Est in quel periodo, praticamente la Praktika, che era della Germania Est, ha chiuso i battenti all'epoca e non trovavi più l'assistenza, i ricambi, cioè non esisteva più la Germania Est. Poi credo che abbiano un po' recuperato la fabbrica in tempi precedenti, però non c'era assistenza, ricambi né niente, quindi al diavolo tutto. Praticamente avevo venduto lo zoom e gli avevo regalato il corpo macchina al tizio. Ho detto, sia mai che ti serva qualche piccolo particolare, per esempio, come è successo a te, il pressapellicola, no? Sì, io mi ricordo solo una cosa, che aveva lo zoom a vite, non ce l'aveva a baionetta, bisognava avvitarlo. No, questa era baionetta, la pratica BX20 era baionetta. Oh già, ma non è che ti stai confondendo con la quella russa, come si chiama, la Zenith? No, ho avuto la pratica io, la pratica. L'avevo comprata, sai come si chiama? Ma non mi viene. Ti ricordi quel negozio che c'era di macchine fotografiche scendendo da via Cagliari lì, per andare ai giardini, lì c'era un negozio di macchine fotografiche tanto tempo fa. Come si chiamava? CC, con la C. Allora, via Cagliari andando verso l'emiciclo, quella terza lì, cavolo, non mi viene, e chi poteva essere? Guarda, sempre c'erano i soliti Perella, De Logu, chi altri c'era che vendeva quel materiale lì? Cucciari. C'hai ragione, Cucciari è stato anche compagno di classe all'istituto d'arte, sì, Cucciari, all'epoca era caro, mamma mia, quanto era caro, io l'avevo pagata meno questa pratica e l'avevo presa da Foto Amica in via Napoli o Amendola, dunque più giù di Salvatore Ruglio, no? E quindi è considerata via Amendola quella. No, dovrebbe essere ancora, forse via Amendola, sì. E vabbè, è vicino a Multini, di fronte a Multini, già ho capito dove. Da Gianfranco, lo conosco anche. Sì, quel ragazzo che aveva gli occhi chiari, un po' ricciolino era. E l'avevo pagata meno lì. Però vabbè, me la sono goduta poco, come vedi, bastata una caduta. E si è sciabidata. Forse comunque sì, hai ragione, comunque in quegli anni là esisteva questo attacco filettato chiamato tipo 42 mm per 1. Per esempio io ho ancora una Zenith che praticamente è nuova, funzionante, ma una reliquia, cioè ormai la pellicola chi la usa più. Ed era con quell'attacco lì a vite, che mi pare che abbia quel nome lì, 42 per 1, chiamato genericamente così. Era più rognoso perché ci mettevi più tempo a cambiare l'obiettivo, capito? A beccare la filettatura, invece a baionetta, fatto. Io ho un amico che la usa ancora con la pellicola, le ordina da internet, le pellicole ci sono ancora. E poi alla camera oscura le sviluppa lui, sia quelle a colori che quelle bianche e nero, ma quelle a colori mi ha detto che c'è un costo superiore, invece bianco e nero sono belle, sono più belle, rendono di più, secondo, per dire, i primi piani rendono di più bianco e nero. Sì, hanno un certo fascino, tipo anni 70 così. Beh, quella è passione. Mio zio l'ha avuta la camera oscura quando era giovane, poi è andato tutto così, non ha più portato avanti passioni, tranne una. Cosa ti stavo dicendo? Leandro, questo amico mio, ha comprato il macchinari a Cagliari in un mercatino dell'usato, ha detto che le ha pagati una cazzata, che colui non sapeva manco il valore, ha detto, di quello che aveva, perché gli ha pagati una cazzata i macchinari, se li ha portati a casa, a Cagliari l'ha preso in un mercatino dell'usato, quel tipo, quelli che fanno passassari. Sì, mi ricordo, questa marca, Darst, ingranditori Darst per proiettare la pellicola in camera scura sulla carta. Tutto manuale, c'avevo anche una bella enciclopedia chiamata Obiettivo Foto che parla di tutto, dallo zero, ti spiega tutto, di tutto di più, ti parla dei grandi fotografi, un po' della storia, come è nato il daguerrotipo, tutto, materiali, tecniche, tutto, anche la foto di Nugio ti insegnavano come fare. C'è anche io l'enciclopedia. Niente, comunque era una bella cosa avere la macchina a pellicola. Io ci avevo quella pratica, potevi andare sia manuale che c'aveva l'esposimetro, che praticamente ti appariva una freccia, quando era al centro c'era l'esposizione giusta. Sì, sì, l'esposimetro. È vero, hai ragione, anche quella che ho avuto io. Allora, potevi andare tutto manuale, cioè tu sceglievi tempo di posa e diaframma, lo sceglievi tu. Oppure quella poteva funzionare a priorità di diaframma, cioè tu sceglievi il diaframma e lei sceglieva il tempo di esposizione automaticamente. Però non mi ricordo se facesse l'opposto, cioè non mi ricordo se tu potevi scegliere il tempo di esposizione e lei si regolava lì, quello non me lo ricordo, però una delle due priorità ce l'aveva. È carina, ti aiutava molto per non stare a dannarti l'anima col tempo di esposizione o viceversa, capito? Poi c'erano tutte le tecniche per avere più profondità di campo, meno profondità di campo, eccetera. È una passione anche quella sfumata, diciamo. Poi sono arrivate le macchinette, le digitali, tutte automatiche, ti hanno tolto molto del gusto. È come avere una vera moto col cambio manuale, tutto manuale, la frizione, è come avere uno scooter che non fai niente, praticamente è un triciclo. Gira una leva e fa tutto lui, capito? Fra un po' freneranno anche da soli. Poi sono arrivati i cellulari e hanno dato il colpo finale alla passione della fotografia alla fine. I cellulari hanno tolto molte passioni, Marco. Anche quella della 27 erano tutti i cellulari, perché se ragazzi stanno tutti col cellulare non erano più baracchino. Prima la loro passione era avere il baracchino, a Natale ci facevano regalare il baracchino, se ti ricordi il periodo di Natale c'era il pienone di ragazzini. Regalavano anche baracchini, però all'epoca era come regalare un cellulare adesso. E purtroppo già anch'io mi sto sentendo molto, vabbè, mi sto dedicando ad altro, eccetera. Mare non tanto, però è perché mi fiacca troppo, e poi io quando vado voglio il mare olio. Io mi guardo sempre il meteo mare di Sassari, dal sito, mi pare che si chiami Il Meteo, ti dice tutto, proprio il livello di il mare, calmo, quasi calmo, poco mosso, tutto il vento, tutto quanto ti dice. Siccome io spesso uso la maschera e pinne, mi guardo dalla zona degli scogli, dovunque vada, e quindi voglio il mare olio, perché sennò anche quando si è moto ondoso già fai il triplo della fatica allontanati dalla costa, capito? A tornare magari l'onda ti spinge, ti aiuta, però allontanarti fa un bel fatica. Vabbè, comunque è sempre, diciamo, ormai io sono andato una volta solo, Marco, quest'anno, e poi adesso ho una macchina che non va bene, quindi devo cambiare un pezzo che costa un sacco di soldi. Eia, avanti che vuole entrare, avanti il fischio, niente, non voglio entrare. Eia già, sì, purtroppo, dicendo del cellulare, molti, però per esempio c'è questo nutrito gruppo di CB nuovi, c'è anche il gruppo di X, ma dove modulano? In chat io non sento nessuno il 27, persino il 10 è vuoto. Prima sentivo te, Torre Squaro entrava, Tonino, Bombolo, Luca del Monte, adesso non sento più nessuno. Torre Squaro è sparito, probabilmente va a caldo Gellecci, perché con questo caldo qua fa piacere uscire anche la sera. Io adesso per dire mi prenderò il cane, me lo metto in macchina e vado a fare un giro, capito? Mi piace prendere un po' d'aria. C'è troppo caldo, stare in casa c'è troppo caldo, non è gara di valuta, la verità è questa. Però io verso le 7 lo accendo tutti i giorni, verso le 7 lo faccio anche scaldare, perché sennò poi si imbarra. Io mi ero messo un po' di connessionatore in camera oggi perché ero più insofferente. Quello portatile però che c'ha quel sistema strano già, cioè non c'ha quel tubo largo 10 cm o 15, c'è una specie di cordone ombelicale con la ventola esterna, l'unità esterna, e puoi chiudere quasi completamente la finestra. Poi per lo spiffero che c'è sopra ci metti o di quei tubini per bloccare la corrente da sotto le porte, no? La corrente d'aria, o una maglietta, la piega a doppio e la attacchi lì e chiudi la fessura. Però messo al minimo è perché io sto sempre in boxer a casa e non esiste mettere roba che sembri frigo perché sennò mi fulmina. Messo il giusto si mangia a 2 gradi, mi abbassa la temperatura della camera a 2 gradi ed è un bijou. Però non lo uso sempre, lo uso oggi che oggi ero tutto distonico, ero già. Ma sono di quelli che si mette l'acqua che si raffredda. No, non è un raffrescatore, è un vero condizionatore. E c'è una forma, guarda, è un Argo, e ci avrà 20 o 25 anni, cioè c'era ancora la lira quando vendevano quel condizionatore. È una cosa un po' anomala, sembra quasi... Come spiegarti? Cioè tu sei in un'unità esterna con questo cordone ombelicale largo 3 dita mie faranno 2 dita tue, e quindi passa in poco spazio, riesci a chiudere, non dico del tutto, ma... E poi c'è una grande unità centrale, non devi mettere acqua né niente, devi dargli solo corrente elettrica, lui fa il resto. Vabbè, e l'umidità dove la scarica, dove l'acqua che tu... No, non è di quelli che perde acqua, cioè che fa cadere acqua, però non è nemmeno un deumidificatore, quindi probabilmente un po' di umidità nella stanza me la fa, solo che io non me ne rendo conto. C'ho anche l'igrometro, l'elettronico, devo guardare. Invece da frescatore d'aria è terrificante già. E ti dico perché. Perché? Allora, la stanza non la raffreddi, lo sapevo già. A me interessava solo che l'aria raffrescata finisse a contatto con la pelle, quando sono sdraiato, tipo la sera, la notte, no? E... Però la senti giusto sulla pelle, quest'area pseudo rinfrescata. Però cosa ti fa? Che ti fa salire di 20 valori l'umidità ambiente, tipo passi dal 55% al 75%. Cosa succede? Che tu esci un attimo dalla stanza, no? Ritorni nella stanza e senti la stanza che è un forno come prima, in più c'è un'umidità che sembra di essere i tropici, e quello è veramente fa più male secondo me. Ho usato con cautela, infatti mi ero muriato e mi ero messo momentaneamente questo condizionatore portatile. No, io ce l'ho attaccato al muro, condizionatore. Ho messo in sala da 2200 BTU, quello 3A, 2200 BTU e mi rinfresca tutta la sala. Io lo accendo, però me ne vado via quando lo accendo, poi quando ritorno lo spengo, la sala tutta quanta fresca. Rinfresca la sala, la camera da letto, un po' e la cucina. Quindi mi va bene, gli abiti dove sono di più. Figa, pensa che questo non so nemmeno quanti BTU abbia, non è nemmeno di classe A più, forse la classe Z, chissà quanto consuma, ma chi lo sa. Ti volevo chiedere già, qua tutto bene, la modulazione, il baracchino è tutto a posto, sto uscendo bene? Sì Marco, c'è altro avvenimento, tutto a posto, tutto qui, come sempre. Guarda, c'era un po' di propagazione in 27 ieri, non molta, però si era aperta verso la Normandia, c'era questo francese che parlava italiano, ma arrivava chiaro chiaro già, segnale anche abbastanza costante, cioè con poco QSB, sembrava che fosse a Sassari o dintorni. Arrivava solo lui parlava con Roma, con non so chi altro, però mi arrivava lui, proprio si è aperta un canale di propagazione in linea diretta con la, in quella zona sua, nord della Francia. Sì, ho sentito ieri c'era Spagna, Francia e non so che cosa era l'altro, penso non era Spagna ma era Portogallo forse. sì, il Portogallo è allucinante. Il Portogallo arriva anche senza propagazione, cioè quando tu senti calma piatta in 40 canali, tu vai sul 34 in LSB e loro riescono ad arrivare anche senza propagazione. Chissà quanti kilowatt hanno sotto. Te lo ricordi quello che voleva sempre a cantarli "Io sono un italiano"? Non mi ricordo come si chiamava. Sempre lo sentivo, ma arrivava forte. Ma non è che il nome era tipo Macaludu, Macaluso? Macaluso, sì, sì, quello lì è. Macaludo, Macaluso, boh, una cosa del genere. Sì, dovrebbe essere Macaludo, l'ho sentito nominare da più persone, in propagazione lo sentivo. Poi siamo passati, vabbè, di parlo in frasca già, propagazione, cose, no, già è bello ogni tanto riuscire a parlare soprattutto con gli italiani. Giorni prima avevo contattato la zona di Venezia che arrivava sparata, tutti e Venezia, poi c'era Treviso credo, poi qualche altro paese, Piombino, provincia lì, non mi ricordo, tutta quella zona lì, arrivavano bene. Ogni tanto tanto per non abbandonare del tutto, poi non sto più facendo girare radio già, solo vedi radio ferme da mesi. Questa qui, quando l'ho riaccesa, camminava il coso, il frequenzimetro, poi come l'ho usata un po' si è bloccato e si è rimesso in sesto, però all'inizio camminava, capito, come lo lasci fermo. Poi che altro dire, quindi fotografia, cose, ne abbiamo parlato. A te invece il motivo scatenante è stata la perdita di tutte quelle foto per colpa, vabbè, nemmeno sua, cioè non è stato volontario il gesto, però mamma mia, che peccato. E allora io ero molto appassionato, Marco, c'era una mostra fotografica e il tema era praticamente fotografare chiese antiche, nuraghi, tutte queste cose qua. Io sono andato a San Gabbino e ho fatto la chiesa di San Gabbino, poi sono andato in diversi nuraghi andando dove stavamo andando, a Luro mi pare, una cosa del genere, e ho fotografato dei nuraghi, mi sono fermato apposta per fotografarli. Poi sono andato in diverse chiese, ho fatto la chiesa di Santa Maria, dovevo presentare queste fotografie alla mostra, come erano tutte cancellate, guarda, ero iscritto e tutto, ho dato la disdetta perché mi sembrava brutto. Però già, a mio avviso, quello di non aver fatto un backup, cioè una copia periodica su chiavetta, hard disk, quello che vuoi, masterizzarle su DVD, che tu non abbia fatto una copia delle foto preventiva, perché sai che anche una memoria della macchina fotografica, una memoria di queste flash, come le puoi chiamare, micro USB, SD, si possono rompere da un momento all'altro, no? Senza preavviso. Avresti dovuto fare una copia, quello è quasi un peccato, cioè un peccato. Avresti avuto tutto il materiale, avresti fatto la mostra, magari ti sarebbe rimasta la passione. Marco, praticamente io stavo aspettando a finire tutte le fotografie per fare quello che hai detto tu. Stavo aspettando a finire tutte le foto prima di presentarle, le avrei messe in chiavetta, capito? Perché poi, vabbè, e si sviluppano anche, no? Perché loro le attaccano a lungo e cose quando fanno le mostre. Ma comunque, vabbè, quella lì l'ho regalata a mia figlia quando si è laureata, mi ha detto, papà, non mi fai altro regalo, regalami quella macchina fotografica, tanto tu la usi poco. Io, siccome ero molto scocciato da quello che era successo, gliel'ho data così, ce l'avevo da poco. Deia, peccato. Vabbè, io ero più... anche per quelle macchinette così, no, tascabili, quando facevi foto di festa in famiglia, compleanni, uscite, io bene o male la collegavo al computer e mi scaricavo la roba, oppure toglievo la SD, all'epoca si usava ancora la SD, quella a francobollo, no? No, addirittura in una c'avevo la compact flash, ancora più grande di un francobollo, se ti ricordi, quadrata con tanti forellini, la toglievo, la collegavo al computer e me le salvavo periodicamente, poi per quanto valevano già, non erano foto artistiche, erano foto di famiglia così, quindi vabbè. Ma io ne ho a casa piena di fotografie, oltretutto non solo le fotografie, c'avevo anche il videoproiettore, proiettavo, facevo, come si chiama, ecco, il videoproiettore è bello, ma video proprio, o quello diapositiva, ah, no. Aspetta, sto confondendo già, ti spiego il perché. Io quando ero più giovane ho fatto diapositive e c'era il proiettore per diapositive. Io adesso non mi ricordo se esistono i proiettori per foto o fanno tutto, anche videoproiettori, cioè si fanno sia foto sia video. Ho abbandonato quelle, non mi sto aggiornandomi. No, è come ce l'avevi tu, facevo le diapositive. Venivano delle foto molto reali, con le diapositive luminose e tutto. Quando tu le proiettavi nella tendina, perché avevo la tendina che si metteva, c'aveva tre piedi, i piedi, si allargava e si stendeva, e le proiettavi come se fosse una sala cinematografica. Sì, già, era spettacolare. Qua praticamente lo piazzavo sul tavolo tondo, qua nel salone. Toglievo i quadri dal muro, nelle nostre pareti, noi abbiamo sempre tinteggiato di bianco, spegnevi la luce, proiettavi ed era spettacolare, soprattutto le riprese tipo tramonti, sai, quelli ricchi di colore rosso, arancione, sai, il cielo certe volte è spettacolare, proprio bello, sembrava di vedere la realtà già, era spettacolare. Poi anche lì, sai, i costi erano un po' superiori alle normali foto, poi te l'ho detto, arriva il digitale, vabbè, tante cose, alla fine gli hobby cambiano, va bene. Comunque io ce l'ho ancora il diapositore a casa di mia suocera in cantina, che poi non è cantina, è una camera, lei la chiama cantina, ma è una camera che ci hanno giù sotto il palazzo, sono camere vere e proprie, c'erano le mattonelle e tutto. E mio cognato ha detto, quando voglio andare a prenderla, ma siccome ci sono dei ricordi che magari a me mi fanno male, ho paura di rivederle, Marco, sinceramente. Un po' lo fa. Guarda, se non sbaglio, anch'io ce l'ho qua sempre chiuso, non so nemmeno se si accenda, se si accenda più, se è impolverato, perché bene o male la polvere micro riesce a passare. Il proiettore era della stessa macchina, della macchina fotografica che avevo preso, e cioè pratica. E aveva di buono che aveva una specie di autofocus, cioè tu mettevi la messa a fuoco principale dello schermo, poi lui si tarava automaticamente, magari ce l'hanno tutti, non lo so, si tarava automaticamente la messa a fuoco di ogni singola diapositiva, che sai, può essere spostata più avanti, un po' più indietro, proprio di decimi di millimetro. Era bello, dai. Poi tutti i caricatori, porta diapositive, insomma, ogni appento già. Io caricatori ce l'avevo rotondi anche dritti, e quelli si mettevano dritti. A volte sbagliavo, mettevo la diapositiva a rovescio, la vedevo a capigliosso. Ehi, guarda, ricordo poco. Era bello, guarda, bastavano sì un paio di metri, due metri, qua sono 2,5 metri grosso modo, e ti veniva già una bella parete tutta, sembrava un maxi schermo quando proiettavi le foto, bei tempi. E tu lo facevi con la macchina fotografica, ti ricordi che caratteristiche avevano le diapositive rispetto alla pellicola? Ti dico che è una cosa relativa all'esposizione. Ma non mi ricordo, io mi ricordo solo che anche la mia faceva la stessa cosa che tu, c'era l'autofocus, faceva e si metteva a fuoco. E poi avevo anche tutte le lampadine di ricambio, mi sa che ce le ho ancora. Però vabbè, il fare le diapositive, allora se tu usavi per esempio la macchina fotografica in manuale, dovevi stare molto attento all'esposizione, cioè al diaframma e quindi di conseguenza al tempo di esposizione, perché bastava mezzo diaframma in più, mezzo diaframma in meno, che la foto già ti veniva un po' troppo luminosa o troppo scura. E quello è il nome della latitudine di posa, era la capacità della pellicola di adattarsi alle, ai piccoli errori di esposizione, mentre la pellicola è più di bocca buona, non le normali pellicole negative. Quelle diapositive richiedevano la regolazione del diaframma giusta, l'esposizione doveva essere corretta, quindi certe volte mi affidavo all'automatismo della macchina. Sì, sì, è vero, adesso mi ricordo, sì, sì, era così. Anche perché era molto sensibile la diapositiva, si vedeva molto se era troppo scura, troppo chiara la diapositiva, anche perché sono illuminati dalla lampadina che mi pare sia di quelle da 100 watt, di quelle grosse. La lampadina è molto potente. Mi ricordo la scaldava abbastanza la lampadina del proiettore, infatti mi raccomandavano di, nonostante la ventola, di non lasciare troppo una diapositiva in proiezione, cioè dovevi andare a rotazione, perché sennò il calore della lampada era veramente potente. Ah, beh, c'avevo anche il telecomando per farle girare. Sì, sì, c'era. Non mi ricordo nemmeno come funzionasse, era un telecomando a filo, perché all'epoca magari i telecomandi senza filo per i proiettori non so se ci fossero nemmeno, e potevi andare avanti e dietro e non so che altro, forse c'avevi la messa a fuoco rapida anche sul telecomando, cosa del genere, comunque dai, belle cose. Poi vabbè, alla fine tutto cade nel dimenticatoio già, foto, diapositive, se ne stanno ridendo tutte queste cose, chiuse negli armadi già, tanto materiale e poca voglia. Tutto in una scatola, in uno scatolone, ci sono le diapositive, gli appositori, tutto in uno scatolone chiuso ermeticamente, ma sono tutti in uno scatolone, capito? Che stanno aspettando, mi stanno dicendo vieni a prenderle, ma io a casa poi non so dove mettermele, l'avevo fatto da mia suocera proprio perché lì c'era la cantina ed era tutto fatto bene, c'era il soppalco dove mettere la roba, gli aveva fatto i ripiani, mio suocero con la tendina davanti per non vedersi nulla, chiudeva la tendina e non vedevi nulla. Ho già, e le Polaroid le ha avute a suo tempo? Sì, l'ho avuta, quelle istantanee. Quelle? Quella istantanea, quella che toglieva le fotografie dopo che la facevi, ma era uno schifo. Beh, lì pagavi un bel, avevi 10 misere foto, di quali piccole, poi ti venivano piccole, tutto cornicetta, di qualità dubbia, poi dipende anche dalla macchina, io avevo una macchina a fuoco fisso, una Polaroid 635CL, mi ricordo ancora la sigla, ce l'ho tuttora, e rivendono ancora le pellicole, cioè hanno ricominciato a produrle e c'è tutto il solito caricatore Polaroid 600 con la batteria incorporata, e però anziché 10 pose 8 misere pose, e ti costa più di prima perché adesso il prezzo è in euro, no? E me ne ha fatto ancora, e non è detto nemmeno che la Polaroid funzioni, magari gli metti il caricatore, no, l'alimenta e non funziona niente. E poi c'erano più costose però negli anni 80, quelle con la messa a fuoco sonar, te le ricordi? Sempre della Polaroid, c'aveva una specie di oblò doratino tutto microforellato, lui praticamente ti mandava un impulso di ultrasuoni e calcolava quanto tempo ci mettevano a tornare indietro, in base a quello in un microsecondo ti regolava la messa a fuoco, quelle erano già più nitide, però terra a terra sempre. Ma io me le ricordo sempre molto chiare le fotografie, molto scolorite, strane, non mi piacevano, sembravano dei negativi più che fotografie. E vabbè, bei tempi. E tutte queste cose qua ci sono le persone che le cercano. Io per dire, c'ho quel diappositore, me l'aveva regalato la mia ex moglie, me l'aveva aveva regalato un compleanno, perché io avevo la passione della fotografia, mi aveva regalato un diapositore, ma aveva pagato 350.000 lire, me lo ricordo ancora. Ah, io non lo ricordo nemmeno, però credo meno. Due tanti, adesso, per sé perché pratica, costava meno perché era roba della Germania comunista. Se avessi comprato roba di altre marche, Olympus e cose, l'avrei pagata magari di più, Nikon, quella roba lì. Poi c'erano un bel di marche già, che adesso non esistono più, di quelle fotocamere, di quelle reflex a pellicola, Petri. Ma guarda, c'ho vecchi cataloghi, per non dire antichi, c'erano marche di tutti i tipi. Certe marche le vendeva quel catalogo che trovava nei giornalini di cose, quella famosa associazione Bagnini, vendeva di tutto, vendeva i magnetofoni come li chiamavano all'epoca, i giradischi, macchine fotografiche di tutte le marche, pagavi a rate, non voglio sapere gli interessi. C'era la mamma, la cosina, io la mamma l'ho avuta con la Pozzetto che usano tuttora, le usano più per tribù, c'è qualcuno ancora che li usa con le Pozzetto, quelle sono molto belle, le mamma, io ci ho buttato tutto al cassonetto, quello, la macchina fotografica funzionava ma non li stavo più usando, così a pellicola ce l'ho buttata via, un peccato, io c'avevo la mamma. Poi ho avuto anche, subito dopo la mamma mia, ho avuto quella Canon, che però era quella elettronica e quella digitale. No, ce ne sono di varie, la cosina era famosa, era molto, c'aveva le lenti Zeiss anche. Sì, ricordo anche quella marca, poi non ho mai capito se si pronunciasse Cosina o Cosina, c'era un sacco di marche, suonavano anche come nomi italiani di reflex. Allora, la mamma, sì, l'ho vista, vabbè, dal vivo, ce l'avevo anche per la 3, mi pare, per fare i servizi fotografici, costava già un po'. Questi noi avevamo l'equivalente povero, che ore sono? 7:30, avevamo l'equivalente povero di quelle col mirino a Pozzetto, no? Con i due obiettivi, l'Ubitel 2 sovietica e la Lubitel 166, tutte e due molto simili, con due obiettivi frontali, uno serviva per guardare nel mirino a Pozzetto e la messa a fuoco era uno schifo, cioè non vedevi niente, io dovevo mettere quella lentina aggiuntiva per riuscire a mettere a fuoco, a me non piaceva come si chiama, però le foto poi erano veramente discrete perché avevi tutto, tempi, diaframmi, la messa a fuoco manuale, l'autoscatto, l'attacco per il flash e il negativo, se ti ricordi, era quel meraviglioso 6x6 centimetri che ti permetteva di fare ingrandimenti anche tipo poster, tenendo una qualità eccelsa. Sì, io mi ricordo che Giuseppe Bellatre ci siamo trovati a un battesimo, stavo battezzando mio figlio e mi aveva fatto la proposta che se gli davo la mamma mi dava una Canon, gli ho detto no, io tengo la mamma, perché io la mamma l'ho avuta sia a Pozzetto che come corpo macchina normale. Lega, sì, mamma, poi ne aveva anche altre, poi lui mamma mi pare l'ha usato anche come nominativo al baracchino, mi pare. E quindi si era avanzato Vecchiume sovietico a noi, la Zenith Reflex, due reflex biotiche, quelle a Pozzetto, e poi il resto è niente, non c'è il resto. C'è una digitale tascabile Nikon, ma non vale niente, non vale. La Canon che avevamo prima era migliore, sempre tascabile. Questa Nikon, nonostante il nome, è veramente terrificante, un rumore video terrificante, nelle zone scure dell'immagine, no? Tipo quando usi il flashino in casa, tutto grana, colorata, una gaggata. Allora io prima di prendere la macchina fotografica ho chiesto a un amico mio che fa fotografia a livelli grossi, è un amico mio continentale di Roma, e mi ha detto di prendere la Canon, di prendere una Canon EOS e se ce la facevo la 60, che allora era la migliore, e di prendere quella che non ce n'era, che la Nikon ha molti difetti. Io avevo un'amica che fotografava e mi ha detto che ha difettato subito appena l'ha comprata, ce l'aveva un mese e ha subito difettato. Quello immagino che sia anche in base al modello già. Se ti capita il modello che è noto che ha problemi, che ne so. Comunque se c'è l'assistenza dovrebbe risolverli o sostituire la macchina, non so. Certo, se fuori garanzia è una rogna, eh. Vabbè. Insomma, tante cose, dai. Una volta le cose le... Se no dovevi andare al fotografo con le polaroid, le coppie si facevano anche le foto erotiche, se ne nascondevano poi nei libri, perché se no con la pellicola cosa andavi al fotografo a fartela sviluppare. Poi vabbè, sono arrivate le digitali e quindi yuhu! Io avevo un amico che lavorava in uno studio fotografico e mi ha detto che una persona altolocata di Sassari ha portato delle fotografie pornografiche e gli ha raccomandato di non farle vedere a nessuno. Quando le sviluppava, di metterle le cose e basta, di chiuderle e non farle vedere a nessuno, nemmeno al personale. Ha detto che arriva tutti, se ne manda di tutti, lui va a primi piani, di tutti, di più fucaccioni. Ed era uno che stava, una persona altolocata, dai, un pezzo grosso. Non sarà Don Diego, no, all'epoca. Neanche Don Diego, c'era un pezzo grosso, questo qui è tirato in possessore, roba del genere, una cosa del genere. Sì, però, e ha avuto la faccia di, da schiaffi, cioè senza vergogna, di portarsi foto zozze a farsele sviluppare, anche se questo fotografo poteva essere amico. Anzi, se è un pezzo grosso poteva anche essere ricattabile in certe... Poteva farsi la copia di foto, vabbè, forse all'epoca non si usava, boh. Si usava, da negativo ne puoi fare quanto di cui fotografie. Si usava anche allora, Marco, non ti preoccupare. Ci lavorava mio compare, quindi, l'ho detto da lui, viste da lui, sviluppate da lui e tutto. No, vabbè, sì, da negativo, no, nel senso non si usava ricattare, se era un importante, sai, assessore, cosa, poi metti che se uno voleva sputtanarlo politicamente poteva, diciamo, fare in modo, vabbè, all'epoca magari non c'era internet, fare in modo che saltassero fuori certe foto con... E come la storia di Marrazzo, ti ricordi? Marrazzo, poi c'era la rima, hanno fatto, parlava tanto dei valori della famiglia, del coso, e poi l'avevano beccato col transone, col trans, che se la faceva, e poi da lì lo slogan, a Marrazzo piace il c***o. Marrazzo, Marrazzo! Ho autocensurato, no, però si è capita la rima, eccetera. E poi, ascolta, videocamere, tu, passione per videocamera o più foto? Avevo anche quella, c'avevo quella mini e quella grande, ce ne avevo tutti e due. C'avevo quella grande con VHS e poi c'avevo quella VHSC. Insomma, anche tu ti sei trattato bene, dai. Sì, quella con la cassetta grande era spettacolare perché sembrava una telecamera professionale, no? Io mi ricordo che nel 90 o 91 eravamo andati in piazza con gente dell'istituto d'arte, uno è diventato anche credo uno speaker televisivo o del genere, mi pare si chiamasse Luca Losito, lui faceva lo speaker e intervistavamo le persone in occasione delle manifestazioni contro la guerra in Iraq all'epoca, mi pare fosse quella, sì. E così sentivi cose più o meno sensate, anche quelle pellicole, cioè quelle videocassette, tutte per rovinate, perse, cioè si sono rovinate col tempo, magari tenute male, tutto materiale perso, un peccato. Sentivi gente che diceva le cose più strane, chi faceva discorsi veramente sensati e intelligenti. Poi ti arrivava la mezza beccia, sì, mandate via i negri dall'Italia, da Sassari, ecco, gente del popolino che se ne uscivano queste cagate, no? in un'intervista che non sapeva nemmeno se sarebbe uscita in TV, per dire, no? Ma noi ci hanno visto con l'attrezzatura, col faretto una volta anche, e se ne uscivamo queste cose qua. E vabbè. E io ci avevo tutte robe da attrezzato, anche con la macchina fotografica c'avevo un flash della Metz, e avevo l'attrezzato, avevo tutto. Che avevo proprio la passione, fotografavo anche i fiori, facevo la macrofotografia, gli insetti, i fiori lì piccoli, li ingrandivo con la macrofotografia. Guarda, qua sopravvivono ancora, di videocamere sopravvivono, là 8 mm I-band, è come che fosse un super VHS della Sony. Diciamo non è perfettissima, però riprende, funziona quasi tutto, quasi tutto. E poi una più commerciale, più andante, tascabile, quelle mini DV, che c'era un nastrino piccolino, una piccola videocassettina magnetica e registrava in digitale sul magnetico. Quella funziona perfettamente, però non ha molto senso. Ma poi c'è di tutto già, c'ho batterie di ricambio, c'ho le videocassette originali vergine ancora sigillate, certe. Qua, già, qua è un negozio, qua io mi posso aprire un mini portobello. Io ho avuto la Sony e la Panasonic come videocamera, ma mi sono stufato di tutto, poi alla fine mi si sono scaricate le batterie, non caricavano più, sono andato alla GBC, me l'ha fatta pagare la, e la seconda volta che si è scaricata del tutto ce l'ho buttata via, perché c'aveva anche un attacco che si metteva al posto della batteria e si faceva andare elettrico, capito? Dell'attacco della batteria si attaccava dove c'era l'attacco della batteria e andava lì. Sì, sì, è vero, è vero. Guarda, la mia era Philips, quella con cassette grandi, e si chiamava VKR6855, che io ricordi, VKR6855 era VHS normale, però gli potevi mettere i microfoni, c'aveva l'ingresso microfono cuffia, quindi quando facevamo quelle interviste ci attaccavamo il microfono purtroppo col cavetto, belline erano quelle cose là. Poi te l'ho detto, il tempo, già, il tempo distrugge tutto, tutte le passioni, tutte le ambizioni, non lo so, io lo vedo così. Perché sì, perché poi come diventi più grande, cominci a eliminare una cosa, eliminare l'altra perché non è più grande. Adesso per dire, c'ho le canne che stanno soffrendo in terrazzo, sono pronte per andare a pescare con un piombo attaccato, tutto, c'è la ginella, basta che attacchi il terminale con l'occhiello e sto andando. Non mi ispira più come prima, prima passavo ore e ore e ore a pescare, adesso non mi piglia più come era prima, prima guarda che uscivo dal lavoro, andavo a pescare 2 o 3 ore, me ne facevo pescare. Ero lì a Pordotone, se bastava che pescheria mi comprassi un po' di cozzi oppure bucconi, e stavo andando, calorichi, qualche cosa c'era, e stavano a pescare, oppure mi compravo gli americani, insomma, mi mangiavo. Addirittura c'era un negozio a Pordotone che vendeva anche granchietti di sabbia, c'era uno che li portava, li vendeva 50 centesimi l'uno. I granchietti vivi, allucinante, quello non l'avevo mai visto già. Aspetta, vediamo se vuole entrare qualcuno, avanti. No, se tu di tanto un colpettino, come dire, ci siamo, ma non vogliamo entrare, va bene. Auguri. E già, c'è un amico che mi sta convincendo, mi vorrebbe convincere a andare a pesca ogni tanto in quei posti di scoglio belli, in modo che non ci siano bagnanti, no? Anche di giorno, è che avevo un caglio. Allora, le canne sono in ottimo stato, sono solo da spolverare, un po' da pulire. Mulinelli ne ho 2 validi, forse 3. Bisogna però cambiare le lenze. Le lenze le voglio nuove perché sono fragiche e che siano un po' resistenti, diciamo. Lenze buone, non cinesi nemmeno. Io mi trovo bene con quella marcata Asso da quello di Lipunti, là, come si chiama? Sportland. quelle marcate asso erano belle resistenti, il colore appena appena leggermente verdolino, guarda, era una super lenza quella. Però alla fine sì, ho soprattutto nelle cassettine, ho trovato di tutto, ho trovato piombi di ogni peso, di ogni pesatura, girelle di ogni misura, ami montati e anche non montati di ogni misura. Poi quelle minchiate che non usi mai, galleggiantini, coso, quei piombini, come si chiamano? Quei tubicini che hanno il piombo alla fine, come si chiamano? Che tendono a salire su quando vai a recuperare in zona di scoglio e si incaglia meno. Ha un nome, come si chiamano? Le? Non li ho mai usati così, comunque Sportland non c'è più. Ha chiuso anche quello, che cacchio. Aspetta, erano non le girelle, era qualcosa. Sì, praticamente era un. Praticamente avevo un. Sì, gli legavi il filo in questo occhiello, o la girella, quello che è. E c'è un tubicino verde con l'aria dentro. E alla fine c'è un piombo di 25, 30, 40 grammi, dipende di come lo vuoi tu. E cosa fa? Che se lanci la scoglio, di solito sei molto più in alto sulla scogliera, no? Rispetto al livello del mare, quindi come fai a riavvolgere, subito tende a salire verso l'alto anziché strisciare verso il fondo e incagli meno, però non ricordo il nome, porcaccia la miseria. Quindi vabbè, comunque già ho capito quali sono, io non li ho mai usati perché quelli si usano solitamente nella pesca alla bolognese e via dicendo, io faccio sempre pesca a fondo, quindi non li uso qui. Ma comunque anche io ho tutta l'attrezzatura, piombi già avvolti nel sughero, già pronti, non faccio altro che aprire il moschettone e metterci dentro l'occhiello, poi è finito il gioco. La lenza si chiama asso, non tasso. Asso, perché mi è uscito tasso, forse la pronuncia, sì, asso, erano buone lenze quelle, poi c'erano i tanti tipi anche, ne aveva un sacco, una sporta, come la volevi tu, di tutti i colori, tutti gli spessori, tutta la resistenza, più resistente, meno resistente, eccetera. Però già, guarda che quei piombi sono per la pesca a fondo, però già da zona di scoglio, a fondo, lui va a fondo, cioè, poi vabbè, tecniche, anch'io pescavo sempre a fondo, non volevo cose strane, galleggianti, roba a mezza altezza, no, non mi interessava, mi rompevo le palle.